da Montecitorio. Ciao. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Allora, diciamo che è stato dato questo appuntamento quest'oggi a Montecitorio come come la piazza per l'indignazione precaria. Questo dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi alla conferenza dove era presente anche il ministro Brunetta. Raccontaci un po', insomma, come sei arrivata ad oggi, come è andata l'appuntamento. Una piazza che poi fra po' andremo anche a sentire Barcellona, visto che è questa domenica 19, non soltanto un appuntamento romano, ma anche internazionale. Sì, infatti, come dicevi tu, si è approfittato sia della chiamata internazionale, quindi oltre a Barcellona anche altre città europee oggi si trovano in piazza per continuare a reclamare questa indignazione precaria. E abbiamo anche noi, siamo venuti qua, abbiamo deciso di dare questo appuntamento nel il presidio dei precari della scuola che si trovano dall'altro ieri sotto al Parlamento. E oggi la scommessa, la sperimentazione che è stata fatta è stata quella di convocare un'assemblea pubblica, naturalmente un po' richiamando quelle già organizzate nei giorni scorsi in Spagna, ma anche con la scommessa di fare un passaggio differente, non solo diciamo evocativo di cose già fatte in altre piazze, ma cercarle di calare più nella realtà cittadina. E è stata un'assemblea molto partecipata, con numerosi interventi a partire quindi dai precari della scuola, ma anche con una delegazione dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo del Teatro Valle, e anche delle lavoratori e lavoratrici delle cooperative sociali, i cassaintegrati dell'Alitalia. Insomma, si è cercato di dare voce a chi negli ultimi mesi si è trovato per le strade, nelle piazze, ma anche nei posti di lavoro a rivendicare i propri diritti. Quello che ci siamo detti, insomma, in molti interventi è quello di cercare di tenere questa piazza, di scendere nelle piazze almeno fino al 22, cioè giornata della fiducia a Berlusconi e l'approvazione del decreto sviluppo. E naturalmente si è detto che non si vuole soltanto sfiduciare Berlusconi come se fosse soltanto lui il responsabile della crisi di questo paese. E noi diciamo, insomma, chi è intervenuto non si sente, siamo rappresentato da nessuno, e vorrebbe che fosse appunto chi si vive la crisi ogni giorno sulla propria pelle a continuare, anche se ci fosse un cambio di governo, insomma, a dire qual è l'idea di città, di paese, di vita che si vorrebbe realizzare. E quindi si sta dando, insomma, appuntamento anche a partire da domani, ma soprattutto dal 21 fino al 22, per cercare di riempire questa piazza, ma avere, insomma, anche un po' la scommessa di allargare, non arrivare soltanto a questa piazza, ma anche di, ad esempio, i precari e i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, della cultura, hanno detto: proviamo a fare iniziative in vari posti, occupare altri teatri, altri spazi abbandonati, cioè cercare di, nelle varie forme, ciascuno a seconda anche della propria rivendicazione, di far, insomma, arrivare un po' l'attenzione verso questi, insomma, i nostri rivendicazioni. Quello che invece ci ritroviamo, come spesso accade, è un po' la forzatura da parte della polizia, della Digos, che sta intimando di sgomberare la piazza. Quindi, come spesso accade, insomma, anche quando questa è una piazza che non ha come prerogativa quella di essere una, diciamo, una piazza soltanto politicista, e neanche l'assemblea ha avuto questo obiettivo, ma insomma di dare parola anche alle persone che attraversavano magari per la domenica pomeriggio il centro di Roma. Eppure ancora una volta ci ritroviamo con risposte arroganti del tipo: l'autorizzazione l'iscrizione pubblica era fino alle 8, quindi dovete andare via, peggio per voi che vi siete gestiti male gli interventi, quindi stiamo insomma cercando di continuare lo stesso l'assemblea e cercare insomma di non cadere in queste provocazioni. Quindi diciamo che l'appuntamento per ora ancora c'è per questa sera. Sì, ancora c'è qui l'appuntamento, il presidio dei precari della scuola e delle precarie rimarrà comunque. Quello che si è detto è di continuare la sinergia e la cooperazione tra tutte le persone che l'hanno attraversata, quindi stiamo dando un grosso appuntamento per sicuramente la notte tra martedì e mercoledì, anche con spettacoli e performance organizzate dagli occupanti del Teatro Valle, per cercare insomma anche di continuare in questi giorni a farci circolare sempre di più questa comunicazione, cercare di riempirla di assemblee, iniziative, per cercare insomma di renderla sempre più ricca e potente. Ok, quindi se volessimo dare un appuntamento possiamo quindi dire diciamo ancora che noi a tutti e tutte quelle che ci ascoltano diciamo comunque di passare al presidio a Piazza Montecitorio e di continuare ad ascoltare sia la radio, a cercare sia attraverso i social network, ma anche attraverso insomma cercare di anche cercheremo di fare manifesti, volantinaggi eccetera, per cercare di far arrivare il maggior numero di persone, ma anche invitarle a tutte le iniziative che ci saranno. Quindi sicuramente adesso quella tra martedì e mercoledì è un appuntamento che possiamo intanto dare, ma quello che diciamo è che appunto visto che la prerogativa è quella di essere un'iniziativa auto-organizzata dal basso, anche quella di far arrivare tutte le idee, le iniziative, tutto ciò che appunto chi vive veramente questa città, questo paese, diciamo l'Italia migliore rispetto a quella che invece viene denominata da Brunetta, passi e renda sempre più ricco questo spazio. Perfetto, noi